bataola. Con su bataola viene bailando pachanga. Con su bataola viene bailando pachanga. Por allá viene Pacheco, viene montando a caballo, que trae giro a Federico y se mueve como un rayo. Con su bataola viene bailando pachanga.